24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, anche oggi in diretta fino alle 9, 24 mattino e radio24.it è la nostra mail. Di cosa parliamo? Parliamo di politica e per la precisione di traditori. Giuda, Volta Gabbana, questi termini che ormai sono comparsi negli ultimi giorni nella politica per chi, quei parlamentari che o hanno cambiato schieramento oppure libero da dei traditori ai finiani. Secondo voi è una terminologia, è un appellativo che si può utilizzare in politica per chi cambia idea? Traditori, che ne pensate? Votate su radio24.it, nell'home page ci trovate bianco o nero, ne parleremo alle 8:30 in vista del voto di fiducia ed ora come di consueto andiamo a sfogliare i giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 9 dicembre, l'apertura del Sole 24 Ore sulla manovra finanziaria. La manovra parte dalla casa, Napolitano, finanziaria essenziale. Poi c'è chi sceglie la politica come il Corriere, Berlusconi bis, così si tratta, o la Repubblica, Camera, il mercato dei voti. Per la Stampa, Banca Italia, allarme mutui. Questi alcuni titoli di apertura dei giornali. C'è Il Giornale che fa un'accusa molto dura a Confindustria. Confindustria paga i sindacati. Questa è la denuncia del segretario di un sindacato, la FISMIC, che denuncia oscuri intrecci CGIL, CISL e UIL foraggiate dall'associazione attraverso fondi e strane pubblicità. Mentre Il Fatto Quotidiano, sistema Alemanno, piazzare parenti e amici. Io vorrei partire da una segnalazione del Corriere della Sera di Sergio Rizzo. Miracolo sanità in Sicilia, premi a quasi tutti i medici. È in prima pagina e poi all'interno, pagina 23, avevamo tutti sbagliato, ma proprio tutti, condizionati dal pregiudizio, eravamo convinti che la sanità siciliana non fosse messa proprio benissimo, come ha certificato una commissione parlamentare, secondo la quale in 503 giorni in Italia si sono verificati 242 casi di malasanità e a chi spettava il poco invidiabile primato? La Calabria e la Sicilia, per l'appunto. E invece no, un'implicita smentita arriva dai risultati della sperimentazione prevista dalla legge del ministro dell'innovazione Brunetta, e cioè la premiazione condotta. La sperimentazione condotta in 22 aziende sanitarie siciliane, 4.000 addetti, ci dice che non il 75% del personale sanitario avrebbe diritto alla gratifica, ma l'86% dei personale sanitario dovrebbe essere premiato. Un risultato che suscita un dilemma. Forse erano ingenerose le critiche al sistema a cui si facevano le valutazioni dei dipendenti pubblici della regione siciliana, dove era in voga l'autoreferto, i dirigenti si davano il voto da soli, oppure in questa sperimentazione c'è qualcosa che non va. Insomma, Sergio Rizzo mette in dubbio il fatto che possa funzionare questa sperimentazione se è vero che, risultato, l'86% dei promossi nella regione, nel record, del record dei decessi nella sanità, secondo le pagelle di valutazione di questa sperimentazione voluta dal ministro Brunetta, l'86% merita una gratifica. E per questo, perché, dice Sergio Rizzo, probabilmente chi valuta, tra questi c'è il Formez, ma anche il CEFPAS, cioè il Centro per la Formazione Permanente, diretto dal titolare di una beauty farm a Caltanissetta, oppure altre strutture che esaminano, probabilmente non sono molto indipendenti. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, il solito spaccato di come va l'Italia. E poi una notizia dal Sole 24 Ore, pagina 19. Davide Colombo torna sulla notizia che il Sole ha pubblicato ieri, cioè la notizia strampalata, assurda, quella di un albergatore di Desio che ha esposto alcune bandiere. Sapete che fuori dagli alberghi ci sono le bandiere di alcune nazioni, tra queste anche la bandiera italiana. È stato tassato perché ha esposto il tricolore. A Desio, l'ufficio tributi ha costretto il pagamento delle imposte dovute sulla pubblicità per aver affisso il tricolore e altre bandiere nazionali. Ovviamente la politica, da Gasparri a Salvini, a Fassina, a Galletti, cioè PDL, Lega, PD, UDC, sentiti da Davide Colombo, dicono siamo alla follia, un episodio davvero grave, il tricolore va tutelato e non tassato. Coro di no bipartisan contro la tassa sul tricolore. A pagina 19 del Sole 24 Ore, la politica che boccia la decisione del comune di Desio. Comune di Desio che tra l'altro, se non sbaglio, è stato sciolto per problemi legati, credo, alla criminalità. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalla politica. Traditori. In primo piano. -6 giorni al D-Day, il voto di fiducia. Stai a vedere, leggendo il giornale di oggi, che abbiamo scherzato. Berlusconi bis, così si tratta. Così è il titolo di apertura del Corriere della Sera, ma anche il Foglio parla di una trattativa che ormai sarebbe stato avanzato, quella bozza d'intesa nelle mani di Letta. Francesco Verderami, che è sempre un notista di politica molto attento del Corriere della Sera: non è solo l'ottimismo della volontà che porta Gianni Letta a essere molto fiducioso sulla mediazione con Future Libertà per evitare il voto di fiducia del 14 dicembre, che va scongiurato, a dire di Letta. Se il braccio destro del Cavaliere confida in una soluzione a tempo ormai scaduto, ci sarà un motivo. Se per Letta il nodo dell'avvertenza tra Berlusconi e fine sulle garanzie reciproche vuol dire che il negoziato si è spinto molto avanti, nonostante i duellanti si mostrino ancora la faccia feroce. L'ipotesi caldeggiata, eccola qui l'ipotesi per la trattativa, è che il Premier presenti in Parlamento il suo programma, recepisca nel corso del dibattito l'apertura dei Fignani e prima del voto di fiducia salga al Colle per dimettersi, in modo che entro 72 ore riceva il reincarico. Ovviamente questa sarebbe sul piatto come trattativa, cioè Berlusconi si dimetta, prenda un reincarico entro 72 ore. Ovviamente su che cosa si tratta? Beh, la legge elettorale, la mediazione di Letta è sulla legge elettorale che i Fignani vogliono cambiare, e Francesco Verderami racconta che è a Scajola, l'ex ministro Scajola, che Berlusconi ha affidato il compito, la proposta per riformare l'attuale sistema di voto, la soglia del 45% per ottenere il premio di maggioranza alla Camera, l'introduzione del premio calcolato su base nazionale al Senato, il ritorno della preferenza, spesso si è detto è un Parlamento di nominati e non di eletti. E dunque si lavora su una possibile trattativa. Anche il foglio scrive: adesso le mediazioni sono almeno tre. Gianni Letta con Fini, Italo Bocchino con Berlusconi, sapete che Bocchino ha incontrato Berlusconi nonostante abbia smentito, e la colomba finiana Silvano Moffa, che tende la mano al PDL oltre ogni aspettativa, dice Berlusconi non si dimetta, è necessario un accordo politico prima del 14 dicembre. Ragazzi, qui che facciamo? Si sta scherzando finora? O meglio, ci sono le voci, molti toni molto aspri, toni molto duri, le accuse. Per esempio, il titolo di apertura di Repubblica oggi: il mercato dei voti alla Camera. Eppure d'altra parte si dice invece c'è una trattativa. Chi lo sa? Sta di fatto che il ministro Romani, intervistato dalla Stampa, pagina 5, da Paolo Festuccia, dice: non si potrà prescindere dal passaggio delle Camere. Di certo non siamo alla compravendita del deputato. Eccolo qui, voglio andare a questo tema perché un paio di giorni fa l'onorevole Calearo ha fatto questa intervista esplosiva al Riformista, dicendo circolano cifre fino ai 500.000 euro offerte per accaparrarsi un voto alla Camera. La Repubblica titola: Camera, il mercato dei voti. Carmelo Lopapa racconta: quando la caccia si fa grossa e si punta uno come Scilipoti, vedremo tra poco chi è, che fino a due giorni fa urlava dall'altra parte, allora vuol dire che è entrato in gioco Denis Verdini. Secondo Carmelo Lopapa, pagina 3 di Repubblica, la maggioranza avrebbe messo in campo una vera e propria squadra di parlamentari che avvicinano gli incerti per in cambio di qualche promessa per cercare di accaparrarsi il voto. Il coordinatore è Verdini, il tesoriere del PDL Rocco Crimi e il campano Mario Pepe, una triade che, stando a informazioni acquisite da autorevoli fonti interne al partito, si muove a tenaglia sugli obiettivi con funzionari e assunzioni, con funzioni e assunzioni di impegni diversificati. Non vi è mai e mai vi sarà traccia di passaggio di denaro. I 400.000 euro di cui si parla, che cos'è? Sarebbe il corrispettivo in 5 anni di una consulenza col partito con un sistema collaudato. Ti propongono di indicare il nome di un amico, un parente, col quale stipulare un contratto di consulenza che si aggira attorno ai 100.000 euro lordi l'anno. E poi cosa ne faccia questo prestanome del compenso? A chi giri quei soldi non è affare dell'offerente. Insomma, un'accusa di una vera e propria compravendita di voti, tanto che oggi è straordinario, al TAN, in prima pagina di Repubblica, centro pagina, c'è il classico dialogo tra marito e moglie. Il marito dice alla moglie: vado al mercato a vendere il culo. E la moglie: fai fattura, se no quelli lo rivendono all'opposizione. E insomma, per Repubblica sarebbe una vera e propria compravendita. Io ho citato Scilipoti, che noi vorremmo avere alle 8.30, non ho ancora capito se lo avremo, se ci risponderà. Dice: provateci. È un uomo devastato in questo momento dal dubbio, l'onorevole Scilipoti dell'Italia dei Valori. Intanto oggi ha annunciato una conferenza stampa dicendo: esco dal partito dell'Italia dei Valori, esco dal partito perché non mi hanno considerato, sono anni che io mi impegno. Fa 2 interviste oggi a Repubblica e a Il Corriere. Qua le cose si perdono con tutte queste carte, questi quotidiani. Voto la sfiducia, però ormai sono finito. L'onorevole Scilipoti ad Antonello Caporale su Repubblica: ho avuto 3 mancamenti grazie allo stress per l'impegno in Parlamento, eppure sono ripagato così dal partito. Anche sua moglie è rimasta tramortita da questa sua decisione, uscire dall'Italia dei Valori. Mia moglie è corsa dalla Sicilia. Domenico, cosa hai combinato? Senta, lei vota Berlusconi? No. Quindi vota la sfiducia? Sì. Di Pietro sarà contento. Mi sono appena dimesso dal partito. Il mio partito non mi ha mai dato soddisfazione, mai una lucina che inquadrasse il mio volto, una dignità politica per le mie battaglie estreme sull'agopuntura. Oh, è un agopuntore. Ma l'agopuntura non frega nulla, onorevole. La scambiano per stregoneria, ma sono ignoranti, a parte il fatto che la collega Silvana Mura sia sottoposta con successo a una seduta. E anche sul Corriere della Sera il dipietrista deluso: minacce e fango contro di me. Quanto le hanno offerto, onorevole Scilipoti? Chiede Monica Guerzoni. Queste sono zozzerie, nessuno mi ha offerto nulla. Ma gira voce nel suo partito che lei abbia dei debiti. Bugie, menzogne da querela, gettano fango su di me. Intanto dice: mi sono ammalato, 3 giorni in ospedale per sovraccarico di lavoro parlamentare, e Di Pietro non mi ha neppure telefonato. Il dramma di Scilipoti, già accusato di essere un Giuda da qualcuno, ed è questo il tema del nostro sondaggio: traditori. Questa è la terminologia che è uscita. Sapete che Libero da qualche giorno, e ancora oggi insiste, ha pubblicato le facce, le faccine con tanto di mail di quelli che per il direttore Maurizio Belpietro sono i traditori, i Finiani, ma non solo, anche Guzzanti, la Malfa, quelli che voteranno la sfiducia a Berlusconi, dicendo: scrivete ai traditori. Loro si sono molto offesi. Ma poi c'è anche l'Italia dei Valori che dice, appunto: vedremo se c'è qualche Giuda tra di noi. Il Secolo d'Italia, il quotidiano vicino ai Finiani, dice: ecco qual è il risultato della campagna di Libero: insulti, maledizioni, auguri di morte. Ecco le conseguenze della campagna di Libero. Anche Enzo Raisi, che sarà nostro ospite alle 8.30, Finiano: all'inizio, lo ammetto, le prime mail mi avevano ferito, mi augurano la morte. E io che faccio? Consegno la lettera alla polizia? Ma che? Ho appeso tutto in ufficio e ci ho scritto a fianco con 2 corna. Tiè! Questo l'onorevole Raisi. Mentre sul Riformista il senatore Massidda fa sapere: a me nessuno offre soldi perché nel giro di 3 minuti gli ho già rotto il culo. E vabbè, questo è il tenore. Mentre Repubblica fa 2 pagine interne, a pagina 44 e 45, eccolo qui: traditori. Perché la politica riscopre la categoria dell'infame. Traditori, Volta Gabbana, Giuda. Il tema del nostro sondaggio è questo: secondo voi si può applicare questa terminologia a chi cambia parere in politica, oppure è legittimo cambiare parere in politica? Sono traditori coloro che per esempio sono stati eletti con il simbolo Berlusconi presidente e ora voteranno la sfiducia, i Fignani? Ma poi c'è, cioè, le accuse di tradimento anche per esempio a un Renzi, no, del PD, che è andato da Berlusconi. Nell'Italia dei Valori, chi vota, chi non vota Berlusconi, chi non vota la sfiducia è un traditore. Insomma, ce n'è per parlarne oggi. La politica, in politica, anche sotto tiro il sindaco di Roma Gianni Alemanno per due inchieste su Repubblica e sul Fatto Quotidiano. Repubblica, pagina 6 e 7: 2000 assunti nelle società comunali a Roma, esplode la nuova parentopoli. C'è anche un articolo di Giovanna Vitale delle assunzioni, più di 850 persone assunte su 7000 totali nella ex municipalizzata Lama e anche nell'ATAC, azienda dei trasporti. Sono le assunzioni a chiamata diretta, un sistema che viene definito da Repubblica a carattere piramidale, prosegue citando una fonte anonima. E ci sono nomi e cognomi, per esempio nell'ATAC, azienda dei trasporti, leggo da Repubblica pagina 6: il dominus è il deputato del PDL Vincenzo Piso, che ha trattato oltre 850 assunzioni per chiamata diretta. L'elenco dei congiunti: l'ex capogruppo capitolino di AN ora in Parlamento Marco Marsiglio ha per esempio sistemato la direzione comunicazione della sua compagna Stefania Fois. Il senatore De Lillo ha ottenuto per la moglie avvocato Claudia Cavazzuti la responsabilità dell'area normativa e disciplina. Il deputato Aracri ha fatto arruolare il genero Nicola Valeriani, così come ha fatto l'amministratore delegato Bertucci col marito della figlia, per poi inserire la cognata del primogenito Marco e la figlia della sua segretaria. Ma a darsi da fare soprattutto l'assessore ai trasporti Sergio Marchi, ha iniziato aiutando la fidanzata Flavia Marino a trasferirsi in ATAC dalla società regionale Cotral, ha continuato facendo assumere la sua segretaria Loredana Adiutori, la di lei figlia, si è superato con la consulenza di 4 mesi assegnata al cognato presso l'agenzia di mobilità, dove sono state prese pure con un contratto a progetto la moglie del suo capo staff Enrico Guarnieri, la ex fidanzata di un altro collaboratore Peppe Leoni, e anche i consiglieri comunali. L'ex AN Marco Visconti ha sponsorizzato l'ingresso come quadro della compagna Barbara Pesimena, il generale prestato alla lista civica di Alemanno Antonino Torre, il reclutamento del figlio come informatico. Continuano questi, con tanto di nome e cognomi, gente che ovviamente oggi replicherà, immagino sdegnata. Però Repubblica fa tutti i nomi, c'è anche il Fatto Quotidiano in prima pagina, il titolo d'apertura, e poi a pagina 3: amici miei SPA, ex camerati, ex segretari, parenti, affini, tutta la sprecopoli del sindaco di Roma. A proposito del Fatto Quotidiano, cito solo questo per chiudere la pagina politica prima del traffico. A pagina 4, una vicenda anche un po' di colore, Corrado Giustiniani racconta: il padrone, come un santo, ora è scritto nella guida Mondadori. C'è una guida edita da Mondadori che viene data ai turisti, si trova in tutte le librerie Mondadori. Veloce, agile, pratica, viene data ai turisti con le 10 cose da vedere a Milano, le cose migliori, le migliori boutique, i musei, le gallerie, i ristoranti, i negozi. Ci sono anche i 10 personaggi più celebri secondo i milanesi nella storia: Sant'Ambrogio al primo posto, Sant'Agostino al secondo, Teodolinda al terzo, Gian Galeazzo Visconti al quarto, Ludovico il Moro al quinto, San Carlo Borromeo al sesto, al settimo Antonio Stradivari, ottavo Alessandro Volta, nono Alessandro Manzoni, decimo Silvio Berlusconi, in una guida della Mondadori. Il traffico. In primo piano. Il Sole 24 Ore oggi si concentra con varie pagine sulla legge di stabilità che è stata approvata dal Senato l'altro ieri, dunque legge dello Stato. La manovra parte dalla casa e tra l'altro parte a Roma la revisione delle rendite catastali, valore base per ICI e imposte sulle compravendite, che coinvolgerà 235.000 immobili, un decimo del totale. Quindi molto interessante questo tema, che trovate poi sviluppato all'interno a pagina 6, la revisione del catasto a Roma, tasse al rialzo per un immobile su 10, i valori di mercato fino a 6 volte quelli catastali. Sono Marco Mobili e Gianni Trovati che danno tutti i dettagli zona per zona di come ci sarà la revisione del catasto, gli aggiornamenti degli importi per calcolare l'ICI e le imposte sulle compravendite. Dunque un articolo di servizio molto molto interessante per i romani, ma non solo. Come ci sono, Cristiano Dell'Oste a pagina 5 racconta come il 55% gli sgravi, il fisco, gli eco bonus, come vengono definiti, sul 55% gli sgravi fiscali hanno guadagnato un anno in più. Sono stati prorogati fino al 31 dicembre del 2011, anche questa era una richiesta che veniva da più parti e che nella legge di stabilità ha trovato conferma. Una notizia però di pari passo negativa e che conquista per esempio il titolo di apertura della Stampa riguarda i mutui. C'è una ricerca promossa, un'indagine condotta da Silvia Magri e Raffaella Pico della Banca Italia, per la verità si riferisce al 2007, la trovate tra l'altro anche sul sito del Sole 24 Ore online, sole24ore.com, come ne parla a pagina 39 del Sole Maximilian Cellino. I mutui, c'è un problema: il 5% delle famiglie italiane non riesce a pagare le rate. È un record europeo, si può dire, e non certo un record di cui andare fieri, indice di difficoltà certamente. La Stampa, come detto, in prima pagina, Banca Italia, il titolo di apertura, Banca Italia, allarme mutui, l'offerta è questa, il 5% delle famiglie non è più in grado di onorare i debiti. E questo anche una pagina su Repubblica. Tra l'altro, il problema di questa ricerca evidenzia che non è tanto la perdita del posto di lavoro il motivo per il quale non si riesce a pagare il mutuo. Non è necessario, o meglio, perdere il lavoro per ritrovarsi in crisi con le rate, perché ci sono anche persone che sono pensionati, oppure chi lavora a tempo pieno, anche il 4,5%, però non ha un lavoro che gli permette di avere uno stipendio tale da pagare il mutuo. Quindi non è solo una questione di essersi trovati magari in situazioni di disoccupazione. In ogni caso, record di insolvenza sui mutui degli italiani, lo trovate a pagina 39 del Sole 24 Ore, ma anche sviluppato su altri giornali, non è certamente una buona notizia quella che viene dall'indagine di Banca Italia. Come non è una buona notizia, ma io la devo dare perché non se ne può più. Ogni giorno ne viene fuori una, non proprio ogni giorno fortunatamente, ma periodicamente sì. O mia o di nessuno, e la uccide dopo anni di persecuzioni. C'è sulla Stampa, pagina 11, la storia di questo uomo, Paolo Chieco, 53 anni, che ha ucciso l'altra sera a Matera l'ex convivente Anna Rosa Fontana, di 38 anni, uccidendola davanti agli occhi atterriti del figlio 17enne di lei. E uno dice, beh, questa è una notizia che purtroppo spesso c'è, ma per l'ennesima volta è la vicenda di una morte annunciata. Aveva già tentato di ucciderla qualche anno fa, era stato condannato a 8 anni di carcere, se ne è fatto 1,5, è uscito e l'ha uccisa. E ora la Stampa si chiede perché nessuno è riuscito a fermarlo. A Matera, delitto anche per Libero, tenta di uccidere la ex, solo 1 anno di carcere, poi esce e la massacra. La perseguitava dal 2005, aveva già denunce per stalking, anche sul Corriere della Sera uccide l'ex compagna, era già stato in carcere per averla accoltellata. Io davvero non dico più nulla, ne abbiamo parlato anche ripetutamente, abbiamo fatto varie puntate sul tema delle persecuzioni, dello stalking, soprattutto nei confronti delle donne, soprattutto in questi casi in cui si sa tutto, è tutto annunciato, ma non si riesce a fare nulla. Per quel che riguarda la cronaca, ovviamente trovate moltissimo anche sulla vicenda di Yara Gambirasio, ancora continuano le ricerche della ragazzina scomparsa a Brembate. C'è per la prima volta a Gabriele Moroni del Quotidiano Nazionale, dice qualche battuta il sindaco di Brembate, colui che si è meritatamente preso gli applausi di tutta l'Italia, anche il plauso del capo dello Stato Napolitano per la sua compostezza. Dice: qui si è scambiata per omertà il nostro modo di gestire questa drammatica situazione, quello di scegliere il silenzio, rispettare il dolore della famiglia. E tra l'altro si indaga, fa sapere il Messaggero, questo in prima pagina, su un SMS, l'ultimo che dal cellulare di Yara Gambirasio è partito, vale a dire sì, confermo. C'era un'amica che le chiedeva: vieni domenica a una gita, non so, a un appuntamento di quelli che insomma gli adolescenti si danno. Sì, confermo. Un messaggio stranissimo, tra l'altro analizzando la cella del cellulare, spedito da 5 km dalla palestra dove era uscita, quindi chissà, probabilmente già in mano a qualcuno. E poi questo sì confermo, non tipico da adolescente, neanche, dicono gli inquirenti, neanche, non so, qualcosa di più, cioè, non so, un bacio, no, ciao, come stai, no, sì confermo, davvero un messaggio molto freddo e molto strano da parte del cellulare, bisognerebbe dire, di Yara Gambirasio. Oh, che dire, ci dobbiamo fermare, ci sono tante altre segnalazioni ma non c'è tempo, segnalo solo della Gazzetta dello Sport che pare ormai gli interisti sono un po' in difficoltà, lo sottolineo, no, non con goduria, vincerete sicuramente il mondiale, quindi tranquilli, il mondiale è già vostro. Però insomma c'è il preesonero, cioè Moratti ha dato praticamente il preesonero a Benitez, cioè Moratti furioso dalla Gazzetta dello Sport: Benitez, il mondo non basta. Vedete, anche Moratti l'ha detto, l'avete già vinto il campionato mondiale, è già dell'Inter, ma pare che poi faremo i conti, e il Corriere titola: siamo al preesonero. Comunque vada, Benitez dovrebbe avere i giorni contati. Chi lo sa, ci fermiamo, votate il sondaggio. No, ma non è che vi volevo portare sfortuna, agli interisti. Buona fortuna, insomma, mondiale è importante. Votate il sondaggio traditori in politica, è un concetto che è giusto secondo voi, su radio24.it, ora il giornale radio. 24 mattino, l'intervista. Alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il protagonista della nostra intervista oggi è Giulio Cavalli, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Giulio Cavalli è un consigliere dell'Italia dei Valori, della Regione Lombardia, ma è anche un attore, autore, teatrale del cosiddetto teatro civile, possiamo dire così, Giulio Cavalli. Sì. E che tra l'altro in vari spettacoli ha denunciato le collusioni della criminalità organizzata, soprattutto nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, per questo vive sotto scorta, questo lo voglio ricordare. Senta, lei Cavalli ha detto qualcosa di pesante, però era da Gad Lerner lunedì, e in TV ha detto: in regione Lombardia ci sono consiglieri eletti coi voti dell''ndrangheta, cioè suoi colleghi. Beh, sì, lo dicono gli atti giudiziari. L''ndrangheta in Lombardia ha deciso di puntare su alcuni uomini, che poi abbia ottenuto qualcosa in cambio, questo è la magistratura che deve dimostrarlo, però evidentemente nelle carte della PM Boccassini c'è scritto questo. Lei sa che ovviamente un'inchiesta può anche poi concludersi eventualmente con una soluzione o con quindi insomma dire questa cosa è una cosa ovviamente molto molto forte, molto no, pesante. Però vede, la differenza è sostanziale, nel senso, io non sto dicendo che ci siano consiglieri, perché su questo non ci sono i dati per poterlo dire, che hanno stretto accordi con l''ndrangheta, perché ad oggi questo non si può raccontare. Però è evidente che le famiglie calabresi legate a delle cosche, al di là del fatto che dei 300 arresti ne vengono confermati 100, non cambia nulla, hanno deciso di puntare su alcuni politici. Ma questo in un paese normale e in una politica responsabile dovrebbe essere una cosa di cui farsi carico, non di cui indignarsi. Senta, il presidente del Consiglio regionale Boni ha detto: intanto lo querelo, Cavalli, perché insomma ha annunciato querelo. Guarda, l'ha querelato Roberto Saviano. Ha querelato Saviano. Due settimane fa, oggi. Io beh, lasciano molti più dubbi questi atteggiamenti da eccesso di difesa, in realtà mi squarciano. Comunque la querela è un'arma nel senso legale, giudiziaria, e quindi sono ben contento in un dibattimento pubblico di ripetere quello che ho detto e che ho scritto. Più che ripetere quello che ha detto, cioè lui ha detto: venga in consiglio regionale, visto che secondo lui siede a fianco di presunti eletti o eletti presunti da 'ndrangheta, e faccia i nomi, cioè punti l'indice, dica quello, non so quanti sono. Ma anche questo lo faccio molto volentieri. Io già nella mia risposta che gli ho dato sul mio sito, ad esempio, ho già riportato gli stralci che raccontano, ripeto, che raccontano di come uomini di 'ndrangheta conclamati perché appartenenti a famiglie criminali da 2 o 3 generazioni, abbiano deciso di puntare su alcuni politici. Poi questi politici rispondono giustamente di non saperne nulla o addirittura di non aver mai stato parte. Ma li vuole fare, perché so che nei suoi spettacoli lei li fa i nomi, se vuole farli chiaramente si assume la responsabilità, non sono qui a difendersi, non sono qui, magari se li vuol fare si arrabbieranno anche comprensibilmente. No, ma guarda, io in realtà sono con i miei colleghi, mi è capitato anche di parlarne, però capisci, la cosa che a me continua a stupire è come questo paese, questa regione, si sia potuta dimenticare che Chiriaco e Barreca, ad esempio, hanno girato i loro voti sul consigliere Abelli, e lo stesso Barreca dice di aver fatto votare da tutti Gianmario, di aver detto di far votare il consigliere Gianmario. Mi stupisce, ad esempio, che non si sappia che nella vicenda della cosca Barbaro Papalia, Iorio della società Creiamo S.p.A. dica, attenzione, magari millantando, questo va chiarito, però dica di aver fatto campagna elettorale per Stefano Maullo. Ora, siccome io con queste persone, con questi colleghi, poi ci parlo, ho un rapporto evidentemente molto cosa, più... Cosa le molto... dicono? Perché già, fatto, lei li ha citati, non saranno contenti. Che cosa le risponde? Ma sono citati su tutti i quotidiani, sono citati su tutte le trasmissioni. In prima serata sono andati più volte, hanno avuto anche giustamente l'occasione di dire la loro. Quindi la cosa che a me stupisce è che sembra che esistano due mondi. Uno che deve essere sempre vergine, che si autodifende a tutti i costi, che è quello politico. E poi c'è il mondo della cronaca dei cittadini, in cui invece queste cose sono già risapute. Loro giustamente dicono di non saperne niente, anzi, se non sbaglio, qualcuno di loro ha anche denunciato, diciamo, queste persone che li hanno segnalati. Senta, lei perché è sotto scorta, da quando? Sono sotto scorta perché evidentemente esistono delle famiglie criminali, e evidentemente alle famiglie criminali dà molto fastidio essere raccontate dal 2007. Perché questo lei fa, cioè racconta nei suoi spettacoli di teatro civile, che cosa? Fa questi nomi, racconta le infiltrazioni della criminalità, e a qualcuno non è piaciuta molto questa sua ma la fortuna delle famiglie criminali, che sono il vero cancro, poi al di là di queste bazzecole da quartiere del consiglio regionale, la fortuna di queste famiglie criminali è quella di non essere mai raccontati in Lombardia, o di essere raccontati sempre troppo poco. Questo gli garantisce una comodità di azione all'interno delle pieghe dell'indifferenza, che fa sì che ciclicamente scatti l'allarme 'ndrangheta in Lombardia o l'allarme mafia in Lombardia, e poi tutto ritorni ad assopirsi. Allora evidentemente usare la parola nei libri o negli spettacoli è un modo, lo diceva Caponnetti, un mafioso preferisce un ergastolo piuttosto che essere raccontato. La ringrazio, ovviamente, buona giornata. Grazie. Giulio Cavalli, voglio ricordare, consigliere dell'Italia dei Valori in Regione Lombardia, conosciuto anche come attore di teatro civile, che da anni è sotto scorta, e che ha detto questa frase forte, che ha creato ovviamente malumori, polemiche. In regione Lombardia ci sono consiglieri eletti coi voti dell''ndrangheta. Ci ha fatto anche i nomi contenuti nelle inchieste. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, e poi continuiamo a parlare di politica, questa volta politica nazionale. 6 giorni al D-Day e volano le parole grosse. Una su tutte è questa: traditori, l'accusa di tradimento. Libero accusa i Finiani di tradire, di aver tradito gli elettori. E poi c'è Di Pietro che dice: vedremo se c'è qualche Giuda Iscariota nel nostro partito. Qualcuno ha addirittura accusato Renzi di tradire il Partito Democratico perché è andato da Berlusconi ad Arcore. Traditori, secondo voi è un concetto che in politica si può applicare, una terminologia che in politica si può applicare? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it oppure 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Sono le 8:32 minuti, e allora parliamo di politica. 6 giorni dal voto di fiducia, traditori, volta gabbana, Giuda. Se ne sentono in tutti i colori. È il tema del nostro sondaggio. Secondo voi è giusto applicare questa categoria in politica, i traditori? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? In Parlamento 3 voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no, per bacco. Che trovata, eh? E chi l'avrebbe mai pensato? Il do, ut des. Sì, sì, sì. Dico, questo dove si trova? Io ti do 3 voti a te e tu mi dai 3 appalti a me. Ah sì? Già, senza contare che a Rocca Secca ci sono degli ottimi terreni comunali che attraverso il suo prestigio noi possiamo comprare per pochi soldi. E vabbè, il grande Totò, gli onorevoli, no? Il Dout Des. Voglio salutare il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sono traditori, si può parlare di traditori? Libero ha fatto la campagna dicendo scrivete ai traditori, che poi sarebbero i Fignani e Affini. Insomma, da entrambi i lati, da qualsiasi lato noi vogliamo guardare la situazione politica, è chiaro che in questo momento si lanciano le testate nucleari, quindi i toni inevitabilmente si alzano e quindi oggi si parla di traditori, domani chissà quale altro vocabolo tireremo fuori, e così fino al 14 di dicembre. Il problema sarebbe pensare al di là del 14 dicembre cosa succede il 15 dicembre. Adesso fiducia o non fiducia, 2 voti in più, 2 voti in meno, il problema politico rimane inalterato, cioè bisogna banalmente capire cosa farà Fini, se Fini continua nella sua, quella che è stata battezzata, retromarcia su Roma, o se invece insiste nella linea, come invece adesso non pare più, di spaccare tutto e andare quindi inevitabilmente al voto, a meno che, come lui ha già peraltro escluso, non si dia vita a una maggioranza alternativa che non è quella votata dagli elettori. E però le chiedo, perché poi adesso presenterò 2 parlamentari che ci stanno ascoltando, sono nell'occhio del ciclone questi giorni, sono accusati anche loro di essere dei traditori a loro modo. Le chiedo, direttore, la questione è questa: ci hanno insegnato che non esiste il vincolo di mandato, no, per il parlamentare, no? E quindi, questa accusa di dire siete stati, non so, i Fignani eletti col simbolo Berlusconi presidente, adesso votate contro Berlusconi. Ma se uno cambia idea in politica si può fare, non si può certo fare? Certo che si può cambiare idea in politica. Qualcuno deve ancora però spiegare agli italiani perché il 29 settembre è stata votata una fiducia che prevedeva 5 punti e rispetto al 29 settembre oggi che cosa è cambiato? Vediamo un po'. Allora, intanto l'onorevole Enzo Raisi del Futuro e Libertà, Fignano, buongiorno onorevole. Buongiorno. Eccoci qua, uno dei traditori, glielo devo dire, questo è l'appellativo che circola. Così come voglio salutare l'onorevole Domenico Scilipoti, buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi. Devo dire Italia dei Valori ancora, sì, oggi lei annuncia che esce dal partito, al momento è dell'Italia dei Valori, sì. Sì. Italia dei Valori, alle 8.35 è dell'Italia dei Valori, alle 13 vedremo. Intanto... Scusi, ho mandato ieri le dimissioni, perciò le ricordo ieri, non sono più dell'Italia dei Valori. Non è più dell'Italia, ex Italia dei Valori, l'onorevole Domenico Scilipoti. Onorevole Raisi, intanto mi racconta un po' questa storia di Libero che ha messo tutte le vostre mail, quelle pubbliche della Camera, arrivano un po', sono arrivate, oggi leggevo sul Secolo d'Italia, è arrivata anche una minaccia di morte, una forse un po' di sì. più. E che ha fatto? Allora, io innanzitutto, scusi, però bisogna un po' inquadrare la situazione, perché sennò qui si usano anche... Io capisco, come ha detto il direttore del programma, che ci sono i momenti in cui si alza il tono anche del confronto. Però non dimentichiamoci che io ho scelto di uscire da un gruppo parlamentare per entrare in un altro, perché il 29 di luglio il leader mio di riferimento, quello che peraltro mi ha inserito nella quota 30% dentro la lista del PDL, è stato espulso al PDL. Perché da lì bisogna partire, perché sennò, qui sembra quasi che noi siamo, no, come qualcuno ha detto, abbiamo fatto una scissione, no, qui c'è stato un gruppo dirigente, quello del PDL, che ha espulso il cofondatore. Sì. Da lì la scelta era: lasciamo il cofondatore in balia di se stesso o decidiamo, sia per coerenza con quello che siamo, sia anche per, come dire, rispetto e dignità per quello che ha rappresentato per noi questa persona, decidiamo di seguirla, appunto. Quindi io non ho capito dove sta il tradimento, cioè il tradimento sarà chi l'ha espulso, non chi l'ha seguito, con tutto il rispetto. Infatti i Fignani replicano, il traditore è Berlusconi, questo dicono i Fignani. Questo è un punto dirimente, anche perché vorrei ricordare a tutti che tra le due, perché solitamente uno va di là perché lo comprano, no? Noi avevamo 4 uomini al governo, si sono dimessi. A noi ci hanno promesso tutto tranne che qualche posto di potere, quindi voglio dire, non ho capito il tradimento, se te lo fai perché ottieni qualcosa, no? Vabbè, senta, ma di queste minacce a morte le arrivano? Detto questo, credo che i giornali come Libero, io l'ultima volta che sono stato trattato in questo modo era negli anni 70, quando facevo militanza tra i giovani della destra, e avevo i giornalisti dell'estrema sinistra che ci mettevano la nostra foto, il nostro indirizzo, e sotto ci mettevano appunto fascista picchiatore, no? E questo mi è costato 3 volte l'ospedale. In questo caso però vabbè, una mail pubblica non è l'indirizzo di casa. Ma sa, guardi, scusi, l'email pubblica non è l'indirizzo di casa, ma è quello che lei scrive. Cioè, nel momento in cui lei mette la mia faccia, l'indirizzo che ho scritto traditore, è evidente che il cretino di turno che passa sotto casa, tant'è che ripeto, la lettera di minacce di morte mi è arrivata all'indirizzo della provincia, non sull'email. È evidente che lo trova, no? Cioè, non è che uno può dire poi, vabbè, ma no, io non però volevo mi interessa, lei cosa ha fatto di questa lettera? Ce lo racconti? Ma io di questa lettera ci ho scritto sopra, ci ho fatto 2 corna, ci ho scritto TM e la sono attaccata nel mio ufficio. Questo sono anche abbastanza superstizioso, se non sapevo quello che ha fatto. Cioè, poi, anche perché voglio dire, adesso, detto come va detta, se ti vogliono fare qualcosa non ti avviso. No, ma infatti, ma non succederà, insomma, però, che non ne faranno. Però aspetti, dire, mi faccia sentire un attimo, prima di sentire cosa ne pensa ancora Mulè, l'onorevole Scilipoti, ex dell'Italia dei Valori, perché l'onorevole Scilipoti, anche lei, pare si sia sentito dare del Giuda. Poi Volta Gabbana, da chi? Dal capogruppo del suo partito, Donadi? È così? Guardi, io faccio una riflessione che è questa. Questo è un momento difficilissimo per l'Italia. Giorno 14 secondo me non dovrebbe esistere, perché non ci saranno né vinti né vincitori, perché si creerà un clima ancora di più odio che porterà a destabilizzare questo paese e lo distruggerà. La responsabilità vorrebbe da parte di tutti di assumersi una responsabilità per unire il più possibile il paese, per non dare forza a coloro i quali parlano il linguaggio dell'odio e per creare la possibilità di far rinascere questo paese. E fra un anno e mezzo, quando finirà la campagna elettorale, quando finirà la legislatura, apriremo la dialettica politica per costruire qualcosa di più. Adesso non si può più. Ma perché lei se n'è andato dall'Italia? Non è vero che non si può più. No, le chiedo, dice... La responsabilità in politica, la dialettica in politica e il buonsenso in politica va applicato, non si va in guerra. Perché quando si va in guerra vuol dire che è finita la dialettica e il buonsenso. Senta, le chiedo, perché le accuse volano sui giornali. Qualcuno dice, l'onorevole Scilipoti, glielo dico tranquillo, è stato comprato con tanto di denaro, oppure ci dica la sua versione, insomma. Questo è del fango che viene buttato addosso, non soltanto a me ma a tutti i parlamentari che hanno una testa e un cervello e che vogliono fare i parlamentari e vogliono riflettere, vogliono fare il proprio lavoro, cioè a dire quello di fare il parlamentare. Ogni volta che si apre una dialettica, ogni volta che si apre una riflessione, si pensa che quello è comprato e venduto. Io non sono né comprato né venduto e come me tantissimi altri colleghi che non sono né venduti né comprati, ma soltanto vogliono fare una riflessione di buonsenso. Quando io le dico, e lo dico e io la ringrazio perché lei mi sta dando la possibilità di parlare, io sono un parlamentare di terza fila, quando io apro una riflessione all'interno del partito ma anche fuori dal partito per dire che giorno 14 non vincerà nessuno, ma perderà il paese, perché chi perde penserà di ribellarsi e di fare la guerra civile, chi vince non vince con una maggioranza che avrà la possibilità di poter governare. È quello che ci diceva adesso il direttore Mulè, cioè vedremo il 15. Lei cosa vota? Lei ce lo può dire in maniera definitiva se vota la sfiducia? Scusi, non è il problema che cosa voto. Però no, ce lo dica. Non dico qual è il problema. Il problema è che io stima di molti personaggi che sono all'interno dell'aula parlamentare, ma di molti non ho stima, perché sono delle persone che non riflettono, perché vogliono fare solo gli interessi di bottega. E allora io dico, e faccio questo appello, lo faccio dai suoi microfoni, io dico, le persone che hanno più responsabilità e che sono stati chiamati dagli elettori ad amministrare in questo momento il paese dovrebbero trovare una soluzione che sia idonea, senza pensare che c'è uno che ha ragione e l'altro che ha... Cioè, quale sarebbe questa soluzione? È quello che si dovrebbero sedere intorno al tavolo e far passare questo periodo di odio. Come? Qual è la soluzione, secondo lei? Perché qua... Che maggioranza faccia la maggioranza e che opposizione faccia l'opposizione. Ma qua non ci sono i numeri. Vabbè, ma ci dica però, perché poi voglio sentire Mulè, ci dica come vota. Ce lo può dire? Perché è un po' importante, lo è. Insomma, lei vota... Il mio voto sino allo stato attuale è quello che è sempre stato, io faccio parte ancora della minoranza. Quindi lei vota la sfiducia. Io credo che sia Fini, che è uomo di buonsenso, e sia Berlusconi, che è uomo di buonsenso, dovrebbero trovare le soluzioni per uscire da queste... Va bene, ma ci dica onorevole, se io dico lei vota la sfiducia, sbaglio. Scusi, lei vuole per forza che dia una risposta come vuole lei. Io le voglio... No, le ho fatto una domanda, mi dica. Sto facendo un'altra riflessione. Il futuro di mio figlio e il futuro di suo figlio è a rischio e a pericolo, perché domani mattina, il 15, si creerà la guerra civile in questo paese. paese. Vabbè, allora adesso poi, poi no, però, però, poi gli, però poi glielo richiedo tra un attimo, perché mi dica, mi dovrà dire se sì o no, però non lo so, direttore Moulet, qua... sì, ma il tentativo, come dire, è apprezzabile, ma mi sembra abbastanza inutile, però io capisco l'onorevole Scilipoti, peraltro sentendolo parlare chiunque penserebbe che non ha mai transitato, non è mai stato nell'Italia dei valori, perché usa un eloquio dei vocaboli che sono lontani mille miglia dalla filosofia che alberga nel suo partito, cioè usa un linguaggio così, come dire, moderato e improntato al corretto dialogo tra le parti che nel suo partito si fa fatica a rintracciare. Lo dico anche perché giustamente prima l'onorevole Raisi stigmatizzava gli imbecilli che fanno le minacce di morte, peraltro voglio dire ne abbiamo tutti, io ne ho parecchie sul groppone, basta girare un po' di siti di imbecilli, quindi non c'è neanche bisogno poi di una mail per essere minacciati di morte, però ha assolutamente ragione. Nello stesso tempo però vorrei richiamare tutti sul trattamento che per ora è stato riservato all'onorevole Scilipoti, cioè sui giornali di oggi io per esempio vedo pubblicate dei decreti ingiuntivi con tanto di numero di protocollo del Tribunale di Barcellona in cui si dice che ha un decreto ingiuntivo per 200.000 euro, allora si sta, come dire, facendo quell'operazione, spesso, come dire, viene etichettata come macchina del fango quando colpisce qualcuno, però oggi questo invece è un esercizio di sana democrazia, quindi è un esercizio di sana democrazia andare a spulciare i conti dell'onorevole Scilipoti. Allora, magari, visto che ce l'abbiamo con noi, se sei d'accordo, io vorrei che lui sgombrasse totalmente il campo da quelle che... La questione dei debiti. Esatto, dei debiti. No, finiamo. Perché infatti, qualcuno, onorevole, qualcuno dice che lei ha dei debiti, che insomma ci sono... Guarda, i mutui. Io non ho debiti, io ho uno scontro, sotto per me è un fatto normale, fisiologico, che chiunque potrebbe avere. Io ho uno scontro con un delinquente, nel senso che è delinquente perché pretende da me il pagamento di determinate prestazioni... 200.000 euro. 200. Non sono 200.000 euro, sono soltanto 60.000 che poi fatti come loro dicono li portano a quello e alle cifre che hanno pubblicato, corrispondono alla realtà. Vabbè, ma al di là di questo, cioè è in difficoltà economica tanto da essere avvicinabile? Io non sono in difficoltà economica, io sto bene di famiglia, non ho nessun tipo di problema, non ho nessun tipo di difficoltà, io non devo dare niente a nessuno e questa è una questione dal punto di vista civilistico che stiamo portando avanti e io mi batterò per dimostrare che questa persona è una persona scorretta perché ha la stessa causa civile con me, con altre 50 persone dello stesso comune e pretende le stesse cose che pretende da ma lei. Ma che pretende da lei? Cioè non ho capito. Per la prestazione di pagamenti di alcuni lavori fatti, cioè dire che sono progettazione di progetti che lui ha fatto per mio conto quando io non ho mai dato nessun tipo di incarico. Come dice il direttore di Panorama, ci sono le testate nucleari che in vista prima del 14 è già in movimento. Devo dare le informazioni sul traffico, ma poi ripartiamo da qui 800 24 00 24, traditori in politica. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 70% dei nostri ascoltatori che vota su Radio24.it dice sì, è giusto, si può chiamare traditori chi in politica cambia schieramento, chi è stato eletto con un partito e ora vota contro, chi è stato eletto, insomma, questa terminologia può anche andare. Voglio sentire Riccardo, la provincia di Viterbo. Buongiorno. Cioè, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dica. E anche ai partecipanti. Sì, dica. Io voglio portare la mia testimonianza, io sono stato appunto militante nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale e poi sono stato cacciato da Fini al nostro gruppo, dal partito, per cui io volevo appunto dire che possiamo anche utilizzare tra virgolette il termine tradimento, ma questa svolta e questo cambiamento di rotta da parte di Fini c'è stato appunto già da Fiuggi, noi l'abbiamo seguito anche turandoci il naso, ma poi dopo siamo confluiti in un partito padronale che è quello del PDL. Lui ha costretto tutto il partito a passare nel PDL e poi dopo ha lasciato tutti. Vabbè, ma qui da capire, Riccardo, se cambiare o riposizionarsi in politica è una cosa che è legittima, insomma, si può cambiare. L'idea è se chiamare, se dire se è un traditore, se è un voltagabbana, tradisci il voto diciamo degli elettori. Ha tradito i valori della destra, perché finalmente per quanto riguarda la componente sociale, quella che doveva tutelare praticamente le piccole imprese, il cittadino, cioè è stato insomma c'è veramente... questo tradimento di fini. Qua c'è un finiano, Doc, Raisi, insomma risponde al nostro... Raisi, io lo conosco benissimo di nome, anche perché abbiamo una conoscenza in comune. Vabbè, adesso non facciamo caramba, Raisi vuole replicarsi. No, vabbè, in questo modo, allora, qui non ha portato nessuno da nessuna parte, ci sono dei congressi che hanno fatto un percorso, hanno disegnato un percorso politico. In quei congressi non mi risulta, adesso non so il signore se ha partecipato, ma non mi risulta che qualcuno si è tirato e detto non sono d'accordo, appunto. Dopodiché quando è stato formato il PDL, lo ricordo tutti perché è un fatto di rimente, secondo me, qui io sono d'accordo che cambia vuol dire, Zacchetta in corso d'opera, perché decide lui di andare da un'altra parte. È un volta Gabbana. Può essere chiamato volta Gabbana, perché io sinceramente da Scilipotti non ho capito perché ha fatto questa scelta, poi me la spiego meglio, diciamo. In questo momento anche io ho le idee confuse sulla scelta di Scilipotti. Per me è successa una cosa diversa, per me è successa una direzione nazionale, l'unica che è stata fatta del PDL, in cui Fini si è alzato con lui, noi, e abbiamo chiesto bene, riconosceteci come minoranza all'interno del PDL e dentro faremo la nostra battaglia di cambiamento, perché su alcune cose non siamo d'accordo, compresa quella cosa sulla politica industriale che citava il signore e che è il primo punto in cui noi mettiamo, diciamo, nel confronto col co-governo. Poi la risposta è stata l'espulsione, dico l'espulsione perché non è che stiamo parlando di una cosa di poco, l'espulsione di Gianfranco Fini. Allora io, che sono stato scelto da Gianfranco Fini, perché voi sapete che c'è le quote 30-70, sì. Le quote 30, dove io sono stato nominato, le quote 30, me le ha indicate Fini, non è che le ha indicate Berlusconi. Quindi io a lui, al limite, dovevo rispondere in termini di coerenza. Senta, ma le chiedo, Raisi, oggi i giornali dicono che c'è una trattativa sotto traccia per evitare il 14 dicembre, cioè Berlusconi si dimetta, entro 72 ore era in carico da parte dei finali. Esiste questa trattativa? Guardi, si dicono tante cose, ad esempio anche di un incontro fantasma fra Berlusconi e Bocchino. Ma è fantasma, l'hanno detto tutti i giornali, o si sono ammattiti tutti i giornali, tutti, ma non risulta, vuol dire, non risulta, sono le notizie migliori, vuol dire, i giornali dicono tante cose, cioè non è che sappiamo meglio, cioè, lei fa giornalista, sa meglio di me che tante volte, vuol dire, partono le notizie che poi alla fine come un tantum si mettono, poi non scriviamo, scriviamo cazzato. Però onorevole Scilipotti qua, perché poi voglio tornare dal nostro direttore Mulè, direttore di Panorama, qua ha sentito anche Raisi, dice non ha capito che scelta ha fatto lei, cioè a me più che non ho capito forse c'è il terrore di perdere un voto, lei ancora, io glielo chiedo per l'ultima volta, poi lei voterà la sfiducia o no, me lo dica. Ma intanto io non ho nessuna scelta ancora, perciò non ho fatto scelta. Io ho preso, uscito dal partito, dice almeno. Io ho preso una posizione perché sul mio nome si sta buttando fango e io ritengo che tutto quello che si sta facendo è veramente. E questo l'ha spiegato. Ci vuole rispondi. Io poi non gli prometto, non glielo chiedo più, gli ho chiesto 55 volte. Mi risponda se vota questa sfiducia o no. È una grande scorrettezza che non ha limiti. Primo. La sfiducia la vota? La mia riflessione è tutt'altra, mi dispiace che lei vuole fare la battuta solo, intanto ora gliela dico, gli darò la mia risposta alla sua domanda, ma mi faccia dire una cosa prima di darle la risposta. Questo è un momento difficile. Ma questo l'ha già detto, però non è... 14 non ci saranno né vinti né vincitori. Ma l'ha già detto. Il collega Raisi dovrebbe trovare soluzioni con il gruppo di maggioranza per elaborare un governo e governare. Onorevole, mi scusi, ma questo siccome il all'opposizione di fare opposizione. Onorevole, però mi scusi, siccome siamo quasi in chiusura di trasmissione. E poi gli do la risposta. E me lo dica. Rimandare gli scontri interni a fra qualche anno, perché oggi significa mandare sul baratro una nazione. Va bene, onorevole, l'ha già detto, ma mi risponda, sennò poi la gente dice che i politici non rispondono. Sino ad oggi, sino in questo momento, la mia posizione è quella di ieri e dell'altro ieri. E cioè, quindi? Ancora sto all'opposizione. Fino a oggi? E che succede da oggi al 14? Ci sarà la conferenza stampa, lei all'una, io dirò qualche notizia in più. Ah, vabbè. E non me lo poteva dire prima, onorevole, che non mi risponderà fino all'una. Mannaggia, direttore Mulè, qua c'è per cavare una parola. Direttore, no, Petti, voglio chiudere, no, il direttore Mulè. Ci ha lasciato, volevo chiudere con lui. E onorevole, però Scilipotti, me lo poteva dire prima, ho fatto 50 volte, sono sudato a fare questa domanda 50 volte. All'una scopriremo. Mi ascolta? Sì, sì. Gli rispondo. oggi e anche oggi a Luna riconfermerò la mia posizione. Ah, cioè perfetto. La posizione di opposizione. Di opposizione, perfetto, chiaro? Perfetto. È tutto chiaro. Oh, è stato chiarissimo. È stato chiarissimo, alla fine ce l'abbiamo fatta e la ringrazio. Onorevole Domenico Scilipote, abbiamo 30 secondi, onorevole. Sì, onorevole, Mule. Non è onorevole ancora. Oggi si parla appunto nell'articolo che lei citava di Carmelo Lo Papa di compravendita, proprio mercato di voti con Verdini, il tesoriere Crimi del partito e il campano Pepe, che è la triade che acquisisce voti con false consulenze da 500.000 euro, cioè accuse forti. Mule. Niente, è ricaduta la linea. È il segnale chiaro che la puntata chiude così. Però leggetevelo questo articolo di Repubblica perché è molto interessante. Ringrazio tutti, Giorgio Mulè, direttore di Panorama, l'onorevole Raisi Fignano e l'onorevole Scilipote dell'Italia di Valori, fino a ieri si è dimesso dal partito. Ci fermiamo qui con Antonella Migliaccio e Alessandro Longoni in redazione e no, stavo dicendo Peter Bescapè, no, oggi c'è Carmelo Lauricella in regia. Benissimo, dalla linea Oscar Giannino, come di consueto, noi ci troviamo domattina alle 7:20, 24 mattino e radio24.it è la nostra mail. A domani.